Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Le istanze antispreco che da tempo guidano le scelte di consumo di molti di noi iniziano a fare breccia anche nel mondo dei fast food. Lo testimonia il primo progetto di recupero e donazione delle eccedenze alimentari nel settore della ristorazione veloce, nato dalla partnership tra Kentucky Fried Chicken Italia e Banco Alimentare. Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Iperconnessa, multifunzionale e sempre più professionale, ecco come sarà la cucina di casa dei prossimi anni, l'ambiente che più di tutti racconta le nuove istanze di vita e di consumo. E poi temporaneo e in movimento, queste invece le caratteristiche dei negozi non negozi, formule di vendita smart e inaspettate che, è proprio il caso di dirlo, corrono dietro al consumatore. La Francia dice basta allo spreco alimentare. Negozi e supermercati dovranno donare ai poveri i prodotti alimentari rimasti invenduti. Lo stabilisce una legge votata all'unanimità. Donare cibo non sarà obbligatorio, ma più facile. In Italia è stata approvata in via definitiva la proposta di legge contro gli sprechi alimentari. 18 articoli che aiutano chi, dal singolo cittadino al supermercato, vuole regalare le eccedenze di cibo alle ONLUS. Cibo, spreco, zero. Tre parole per fare una rivoluzione, almeno forse per avere una visione sul futuro e un'azione sul presente, oggi. Nutrire il pianeta e combattere lo spreco. Come lo combatti? Attraverso la cultura e la conoscenza dei cuochi contemporanei. Perché la cucina del futuro deve pensare anche a questo, combattere lo spreco, ma anche partire dal basso, quindi diventare popolare. Poi ti guardi allo specchio e ti dai del deficiente, perché lo sai che è della vita, ma non si butta via niente. Dalla legge contro gli sprechi alimentari, approvata prima in Francia poi in Italia, all'Osservatorio Nazionale sugli Sprechi di Andrea Segre, fondatore di Last Minute Market, fino al refettorio ambrosiano dello chef stellato Massimo Bottura. Abbiamo scelto nella clip solo alcuni dei pilastri che hanno costruito in questi anni una nuova sensibilità, una nuova consapevolezza sullo spreco di cibo, invitando tutti a fare la propria parte, in quanto consumatori, divulgatori, produttori, ristoratori, l'elenco potrebbe continuare. Con l'iniziativa che vi raccontiamo oggi aggiungiamo un nuovo tassello. Si tratta del progetto Harvest, primo progetto di recupero delle eccedenze alimentari nei fast food. A metterlo in pratica in Italia, proprio nella scia della legge del 2016, Kentucky Fried Chicken, in collaborazione con Banco Alimentare. Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia. Un'enorme soddisfazione, perché noi siamo in Italia anche da poco tempo, siamo ancora piccolini ma siamo riusciti a fare quello che di solito fanno le aziende un po' più grandi. Il programma Harvest è presente nel mondo KFC da 25 anni e quindi è qualcosa sul quale ci si impegna già a livello internazionale, e ci hanno detto che l'Italia poteva essere un terreno fertile ed è stato vero. Dall'altro lato abbiamo avuto bisogno di partnership particolari, perché ci siamo legati col Banco Alimentare, che certamente è di grande supporto e aiuto. Abbiamo avuto il supporto dell'ATS, le ex ASL di Milano, che ci hanno spiegato come fare le cose per bene. E poi abbiamo avuto il supporto dei ragazzi nei nostri ristoranti. Questa è stata la spinta più forte di tutti e quella che ci rende più orgogliosi, perché vedere loro contenti del fatto che si possano recuperare le eccedenze di produzione giorno per giorno è la nostra più grossa soddisfazione. Ci racconti il percorso di questo cibo, come verrà confezionato, preparato e quale destinazione avrà? Partiamo, come dicevo, dal ristorante. Noi cuciniamo pollo, il pollo fritto viene cucinato in previsione delle vendite che faremo. Non siamo sempre accurati e vogliamo essere sempre pronti con i nostri clienti, quindi ci sono alcuni momenti nei quali il pollo che abbiamo cucinato non può essere messo in vendita, perché non è più, come noi diciamo, al nostro golden standard, ma in realtà è ancora pollo buonissimo e assolutamente commestibile. Abbiamo la nostra procedura interna di trattamento, lo inseriamo in buste apposite, lo etichettiamo, lo mettiamo in cella freezer. Nel corso della settimana successiva il Banco Alimentare viene, ritira il pollo congelato e lo distribuisce alle varie associazioni sul territorio che poi si occupano di fornire un pasto a chi un pasto non ce l'ha. In questo caso siamo partiti per primi col ristorante di Arese e l'associazione con la quale siamo stati messi in contatto è la Caritas di Rho. Partiremo tra poco sul ristorante di Milano Bicocca e abbiamo un'associazione sul territorio che si occupa di assistenza di ragazzi, soprattutto adolescenti con famiglie difficili. Banco Alimentare è stato entusiasta perché ha accolto l'opportunità di poter donare non una materia prima che poi deve essere trasformata o un piatto che comunque si trova in tavola tutti i giorni. Quando vengono serviti i pasti che noi abbiamo donato, ci hanno raccontato le associazioni che c'è un vero momento di festa. Quindi l'accoglienza è stata da parte del Banco Alimentare eccezionale, da parte delle associazioni caritatevoli altrettanto entusiasta. In che misura le istanze antispreco di consumo responsabile si fanno sentire anche nel vostro settore, dal vostro punto di vista di produttori e distributori e da quello dei consumatori con i quali voi siete in contatto tutti i giorni? Le istanze sono fortunatamente in questo momento fortissime, a differenza di qualche anno fa. Oggi è un tema, si parla di questa cosa qua e quindi i solleciti sono veramente molteplici. Siamo stati contenti di riuscire a partire quando siamo ancora giovani in Italia perché abbiamo fatto vedere che effettivamente si può fare. Anche gli spazi, le stanze delle nostre case si adattano alle nuove abitudini di consumo e di vita. C'è un ambiente che più di tutti racconta questa trasformazione. È la cucina, quella per cui già oggi si spende di più. La cucina del futuro sarà sempre più multifunzionale e tecnologica. Si potrà cucinare, pensate, direttamente sui piani di lavoro e sostenibile. Lo rivela lo studio Global Kitchen, condotto in 8 paesi nel mondo, tra cui l'Italia, interpellando 800 professionisti ed esperti, tra cui chef stellati e designer, un progetto promosso dal gruppo Cosentino, azienda leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici innovative per l'architettura e il design. Roberto Franceschin, Country Manager Italia. Noi abbiamo uno strumento interessante che si chiama Silestone Institute, che è una piattaforma internazionale dedicata allo studio e alla diffusione della conoscenza dello spazio cucina, ovviamente, come ambiente sociale e di lavoro. Uno dei nostri principali settori di attività è chiaramente lo studio e la consapevolezza dell'igiene in cucina, sia in ambito pubblico che privato, per cui vorremmo promuovere uno stile di vita più sano. E questo noi diciamo che lo facciamo da svariati anni. Sono stato il primo produttore di agglomerato di quarzo che ha creato una superficie nel 2005 antibattericattiva. Tutto questo lo facciamo perché noi crediamo che la cucina debba evolversi verso un prodotto sempre più vicino chiaramente a quelle che sono le esigenze del consumatore. Il consumatore che vedrà sicuramente una cucina sempre più connessa a tutto ciò che è il mondo esterno, con un semplice tocco consentirà all'utente finale di poter cucinare, telefonare, guardare la televisione direttamente, forse dal piano cucina. Noi stiamo facendo delle prove con alcuni dei nostri partner per tentare di poter cucinare sul piano cucina, sul piano lavoro. Quindi la cucina diventa uno strumento per fare tutto ciò che attualmente magari in cucina non si fa. Se lei pensa poi a come vengono strutturati gli appartamenti di nuova generazione, lo spazio cucina è sempre più living, per cui le barriere architettoniche che frapponevano il salotto alla cucina oggi non esistono più. Lo spazio è un open space e di conseguenza la cucina entra a far parte del determinante dell'ambiente casalingo. Dal negozio per alpinisti su una parete rocciosa a 2000 metri d'altezza alle vending machine su ruote. Sono i negozi on the road i protagonisti della seconda parte. Nel focus sui trend esploriamo le nuove frontiere del retail. Restate con noi subito dopo la pausa. Essere e avere. si può cercare un negozio di antiquariato in via del Corso. Ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Focus sui trend. Non più solo pop-up store, il retail vuole stupire con formule di vendita sempre più smart e inaspettate, a metà strada tra la comunicazione strategica e l'esplorazione di nuovi canali. Sono i negozi non negozi che ha raccolto per noi Luisa Schiero di Future Concept Lab. Bentrovata Luisa. Bentrovata Maria Luisa e anche i nostri ascoltatori. Allora, dove ci porti con il primo caso? Allora, il primo caso vi porto davvero in un paesaggio molto emozionante, mozzafiato, perché siamo sulle montagne rocciose. Il negozio è in realtà un pop-up. Si chiama Cliffside Store e si trova a 2000 metri di altezza ed è raggiungibile esclusivamente attraverso una scalata di un dislivello di circa 100 metri, quindi assolutamente per un ingaggio di un consumatore esperto alpinista. E in questo negozio vengono effettivamente poi regalati prodotti che riguardano, diciamo, tutto ciò che è l'attrezzatura e l'abbigliamento tecnico per gli scalatori a tutti coloro che riescono a raggiungerlo. Sono già stati dati circa una settantina di capi e lo scopo di questa agenzia che si chiama WIP, che ha lanciato questa iniziativa, che è un multimarca, di fatto si tratta di Kenneth Cole, Bauer, Carhartt, brand di questo tipo molto specializzati. Lo scopo è quello di ottenere anche da coloro che li utilizzano e che li proveranno la verifica dell'effettiva resistenza ai 37,5 gradi corporei e il mantenimento di questa capacità tecnica. Come sempre le immagini sono sulla nostra pagina Facebook, da un negozio difficile da raggiungere a negozi che letteralmente corrono dietro al consumatore, quindi negozi mobili su ruote e non parliamo di food truck. Esattamente, la strada diventa in questo caso protagonista dell'ingaggio con il consumatore in modo effettivamente in questo caso molto più semplice. Il primo caso è il Treasure Truck di Amazon, quindi una sorta di van molto grande, quasi una sorta di veramente di camion, che ha iniziato nel 2015 a girare in un'unica città americana, adesso è diffuso in 18 città americane. Tanto è stato il suo successo che consegna un unico prodotto fortemente scontato per quel giorno e che ha a disposizione dei clienti Amazon che abbiano preventivamente scaricato e si siano registrati sull'app relativa, sulla quale vengono quotidianamente aggiornati dove eventualmente desiderare acquistare quel prodotto. Si tratta di prodotti tecnologici piuttosto che alimenti freschi più vari. E la cosa interessante è che poi l'acquisto viene fatto direttamente sul nostro smartphone o con un computer e poi si va direttamente a ritirare il prodotto nel camion che gira per la città. Secondo caso, appunto sempre di negozio tra virgolette che si sposta all'interno della città, è un caso di sperimentazione, perché possiamo considerarlo quasi una sorta di evoluzione della vending machine. Wheels è una startup di Stoccolma che in collaborazione con l'università di Hefei, la cinese, stanno testando una sorta di mega chiosco all'interno del quale non è presente personale di vendita, si accede esclusivamente sempre previa chiaramente una registrazione digitale, un riconoscimento digitale, e all'interno di questo piccolo, diciamo in questo caso van che si aggira per la città, soprattutto vicino ai campus universitari, si può acquistare prodotti di vario genere, in questo caso principalmente legati agli esigenze di studenti più giovani. Interessante il fatto che ci sia un test rispetto a un target molto preciso. C'è chi ha pensato addirittura, Luisa, di andarseli a prendere i clienti, nel senso di offrirgli un passaggio per dare visibilità a una nuova apertura. Sì, questo è divertente perché si tratta in questo caso di Burger King che sperimenta molto già in Francia, ma in questo caso in un'ottica invece sua di espansione sul mercato belga ha pensato a Bruxelles di attivare una linea di bus, quindi un autobus che si chiama proprio Whopper Bus, totalmente riconoscibilissimo diciamo dalle descrizioni, insomma dai disegni che ha all'esterno, e che gira per la città e trasporta, soprattutto per coloro che abitano poi nelle parti più periferiche della città, verso il ristorante gratuitamente tutti coloro che lo desiderano, e fa diverse fermate all'interno di un circuito preciso. Rientrano in questa categoria di negozi non negozi anche le sperimentazioni sugli spazi di vendita ricavati in scatole di vetro, container, eccetera. A me viene in mente ad esempio Luisa Freitag, ma ce ne sono altri. Sì, infatti, esattamente. È un trend questo che è già in atto da parecchio tempo. È interessante l'evoluzione che ne sta facendo Birkenstock, perché sempre di container, scatole appunto di questo tipo, effettivamente si chiama proprio box Birkenstock, verrà realizzata però, la cosa interessante, in partnership con diversi concept store con i quali la marca già comunque ovviamente ha un legame. Quindi questa scatola, che sarà la prima per esempio, sarà in Germania presso il concept store di Andreas Mercudis, poi Barnes a New York, 10 Corso Como a Milano. Quindi dicevo, queste scatole che conterranno ovviamente prodotti Birkenstock per circa un 60%, quindi magari limited edition, però saranno nella loro realizzazione sia esterna che interna di arredi, quindi anche personalizzati dal concept store che in qualche modo li affianca e li ospita, e quindi ci sarà un ulteriore livello di personalizzazione, anche di proposta se vogliamo, rispetto alla relazione che c'è tra il brand e questi concept store. L'ultimo caso, terminiamo con una startup, di nuovo torniamo in Cina, dove evidentemente un discorso di accessibilità durante l'arco delle 24 ore dei prodotti è molto sentito, probabilmente anche proprio per i ritmi di vita di questo paese, e quindi Bingo Box, giovani cinesi hanno creato un'ulteriore possibilità di negozio automatizzato. In questo caso di nuovo non c'è personale, lo scopo è stato proprio anche quello di cercare di ridurre al massimo i costi nell'accesso a prodotti, di nuovo attraverso previa registrazioni di app e quindi poi scansioni di QR. E sono prodotti come snack, birre, piuttosto accessibili per coloro che magari soprattutto in tarda notte hanno per lavoro o anche studio, sappiamo bene, necessità di avere accesso a prodotti in maniera anche sicura, ecco, se vogliamo, da questo punto di vista viene garantita un po' anche la sicurezza. Luisa Schiero, grazie, alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia di Francesco Morace. Ben trovato Francesco. Buonasera Maria Luisa. Quale libro ci hai portato questa sera? Da dove partiamo? Questa sera partiamo da un libro di Mauro Magatti, che è un sociologo, un collega dell'Università Cattolica di Milano, che si chiama Cambio di paradigma, uscire dalla crisi pensando il futuro. E come sai, il tema dei paradigmi ci è molto caro, e quindi è un libro molto bello che lancia un pensiero eretico, e cioè l'indebolimento dell'individualismo, mentre spesso si continua a pensare che l'individualismo sarà la religione del futuro. E invece Mauro Magatti immagina che questo indebolimento porterà a un bisogno di ricostruire i legami anche sociali in modo generativo, che è un po' il pensiero che lui lancia. Tra l'altro anche lui, come te, trova sbagliato il concetto di decrescita. Sì, perché in realtà la generatività è quella che possiamo definire anche la social innovation, cioè l'innovazione sociale, che è comunque il crescere di una nuova sensibilità, di nuove opportunità, per dare anche alle giovani generazioni un orizzonte futuro che non è di un passo indietro ma di un passo avanti. Quindi, come spesso diciamo, l'analisi della decrescita può avere anche degli elementi importanti di lettura di un modello di sviluppo non sostenibile, però poi bisogna accettare il grande rischio della crescita. Ecco, lui scrive: per tornare a crescere le strade sono due, o spremiamo di più il limone, cosa che tra l'altro molte aziende hanno fatto, detto, continuano a fare come ricetta anticrisi, oppure torniamo a crescere producendo valore, pensando quindi anche a uno sviluppo umano e sociale. E lui tra l'altro cita una frase di Stiglitz che ho trovato veramente illuminante, premio Nobel per l'economia: l'unica prosperità possibile è quella condivisa. Sì, noi l'abbiamo chiamato trust and sharing, no? La condivisione, però in un orizzonte che è quello comunque della fiducia, della ricostruzione di una catena della fiducia che deve affiancarsi a quella del valore. Quindi il valore economico è importante, il business è importante, però ricostruire tutto questo in una visione che tanto tempo fa è stata definita economia civile, è stato fatto dagli illuministi napoletani e poi milanesi a fine del Settecento, è molto importante ed è anche l'orizzonte di Mauro Magatti. Ecco, Magatti invoca per così dire una call to action soprattutto sulla classe politica, quella che tu analogamente fai però, Francesco, anche sulle aziende. E così mi verrebbe da dire tutti gli uomini e le donne di buona volontà e di grandi responsabilità, perché è vero che tutto questo può partire dal basso, ma se poi non c'è qualcuno che gestisce in qualche modo il potere, il bene pubblico, chiamiamolo come vogliamo, difficilmente assistiamo, almeno in Italia, al salto di qualità. Quindi questo incontro felice e virtuoso tra la politica, la pubblica amministrazione, le aziende, i manager, gli imprenditori e i normali cittadini, ci certo, mancherebbe altro, difficilmente andremo lontano. Grazie a Francesco Morace, grazie a Roberta Frisani in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.